La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Se tu mi hai trattato sempre come tutti quanti gli altri, perché secondo te gli uomini sono tutti uguali, ma io non capisco, ma allora che ti importavi di sposare a me? Ecco, la ragione, l'interesse. Uno fa una cosa senza ragione. No, femmina come a me me l'hai detto tu e me lo stai dicendo da 25 anni. Se fai conto, mi serve. Tu mi serve. Ah, tu ti credevi che io dopo 25 anni che ho fatto la vaiassa vicino a te mi veniva così, con una mano innanzi e un'altra rete. I denari, Filomena, è naturale. I denari. Ma state zitta. Ma è possibile che voi altri uomini non capite mai niente? È nata cosa che voglia te. E ma dai, tengo 3 figlie d'un me. Filomena, tu che stai dicendo? Tengo 3 figlie d'un me. Oh, mia. 3 figli? E a chi sono figli? All'uomo come a te. Ma che vuoi dire? Che agli uomini come te, che significa? Perché siete tutti uguali. L'avete sicuramente riconosciuto, Edoardo De Filippo nella parte di Domenico Soriano e Regina Bianchi nella parte di Filomena Marturano, un'interpretazione classica, ma Filomena Marturano è anche a teatro in questi giorni, dal 9 ottobre al 16 novembre al Teatro Argentina, con Lina Sastri nelle parti di Filomena Marturano e Luca De Filippo nelle parti di Domenico Soriano. Abbiamo con noi Lina Sastri e le chiediamo proprio che cosa vuol dire per una donna napoletana come lei, un'attrice, interpretare la donna napoletana per eccellenza, Filomena Marturano. Beh, intanto vuol dire incontrarsi dopo un lungo viaggio attraverso il teatro, il cinema, la musica, fatto in questi anni con Edoardo, autore di questo testo. Io ho debuttato con Edoardo quando ero una ragazzina, avevo 17 anni, dicendo qualche battuta, poi ognuno ha preso, come dire, la sua strada, e quindi rincontrarlo adesso dopo un lungo viaggio a questo punto con Filomena è un grande momento emozionante e impegnativo. Per me vuol dire interpretare un personaggio straordinario scritto da un grande maestro come Edoardo. Un personaggio di donna complesso, ricco, pieno di 1000 contraddizioni e 1000 sfaccettature. Una donna diversa perché prostituta, perché arrivata poi alla prostituzione in passato per una miseria umana, non soltanto economica. Una donna che è stata indurita dalla sofferenza della vita, ma che conserva comunque dentro di sé, come la gente del popolo sa, un'etica naturale, una praticità, un senso diretto con la vita, con le cose della vita, che ha un suo modo di essere religiosa, che ha un suo modo di essere madre, una compagna di un uomo per 25 anni che poi alla fine riesce, volendo assolutamente, desiderando con tutte le sue forze la famiglia, perché sa che la famiglia è la forza di una persona, riesce poi a ottenerlo fino all'ultimo minuto che parla di questo pianto finalmente, dell'abbandono finalmente che lei si può concedere. Un personaggio ricco, complesso, difficile, bello. Senta, lei recita con Luca De Filippo, quindi esatto. Prima il padre, poi il figlio. Esatto. Qual è la differenza tra Beh, i due? Io non lo so, perché io con il padre, Filomena non l'ho fatto, io con il padre ero una ragazzina che aveva 17 anni e facevo la comparsa, poi ho detto qualche battuta, poi ho fatto Natale in casa Cupiello, dove quello in video, diciamo, che conosciamo. Ed era un dio lui? Era un grande uomo, ho avuto la fortuna di conoscere un grande uomo, oltre che un grande maestro, una persona di grande sensibilità e di grande intelligenza, sia umana che teatrale. E quindi la fortuna poi di un attore sta negli incontri, e quindi io, avendo avuto la fortuna di conoscere Edoardo, come dopo poi Padroni Griffi, come altri e tanti altri maestri che ho incontrato nel mio percorso sia teatrale che cinematografico che musicale, insomma, in questo senso posso veramente ritenermi fortunata, perché oggi un giovane ha più difficoltà a incontrare dei maestri. E anche in questo caso c'è Luca De Filippo, suo erede, e c'è Francesco Rosi, che è un, come tutti sappiamo, un grande maestro del cinema, che da qualche anno fa appunto cura la regia, da qualche anno ha curato la regia degli ultimi spettacoli di Luca De Filippo. Filomena Marturano ha una famiglia che oggi definiremo allargata. Si può osare dire che Edoardo nel suo teatro già precorre i tempi, perché sia non reale, non giusto quello che dice lei, nel senso che non è proprio di famiglia allargata quella di cui parliamo. La famiglia allargata è un altro concetto. Qua parliamo proprio di famiglia. Ah, lei dice è una famiglia tradizionale? È assolutamente una famiglia tradizionale, quella che ricerca Filumena. Anche se io non ho niente contro la famiglia allargata, nel senso che in un mondo nel quale esiste, allora non esisteva, è stata scritta nel 1946 questa commedia, esiste il divorzio, esiste la separazione, esistono mondi che si separano, famiglie che si separano, figli che nascono da altre madri, da altre unioni, questo rende possibile nel mondo di oggi, da un po' di tempo, e sempre più lo sarà, la possibilità della famiglia allargata. Quella di cui si parla nello spettacolo che stiamo facendo noi, Filumena Marturano, che nasce nel 1946, dedicato ad Edoardo, a Titina, si parla di famiglia. La famiglia al di là ora del concetto pratico della famiglia, la famiglia come forza di una persona, come dice Filumena, a casa, a famiglia, cioè la famiglia che aiuta, che dà forza, che difende, e che oggi credo, proprio perché si è dissolta, proprio perché viviamo in una società che ha distrutto la famiglia, facendo crescere più i singoli rispetto alla famiglia, è quella che poi dava forza ai giovani, punti di riferimento. I giovani di adesso non ne hanno tanti, proprio perché spesso non hanno le famiglie. Cioè, lei non vede una dissoluzione della famiglia tradizionale, anche per esempio il Natale in casa Cupiello da parte di Edoardo? Ma la dissoluzione della famiglia tradizionale, il Natale in casa Cupiello, mi scusi, perché? Perché c'è questo figlio degenerato, questa figlia che ha un amante. Ma non è degenerato. Vede, no, io le chiedo di riflettere, perché è bello parlare insieme. Lei è italiana, nel senso che lei giustamente non è napoletana, io sono napoletana. Voglio dire che Napoli è un mondo, Napoli è un regno, non è soltanto un dialetto, è un modo di essere, no? E diciamo che il sud del mondo è un modo di essere, che poi Edoardo ha saputo nelle sue commedie descrivere con grande profondità, oltre che con grande eleganza e armonia, andando poi un pochino oltre il dialetto napoletano, rendendolo comprensibile poi anche ai cosiddetti non napoletani. Il napoletano, o comunque la persona del sud, ha un rapporto molto diretto con la natura, nel senso che riconosce il bene e il male al di là delle piccole regole, diciamo, che sono quelle della borghesia. Di conseguenza il mondo che descrive Edoardo nella famiglia popolana o piccolo borghese napoletana è un mondo fatto di piccole cose, dove, ecco, quello che lei ha descritto come figlio degenerato è un figlio un poco più ritardato degli altri, che va protetto. Io la ringrazio, perché questa differenza, sentirsi dire lei italiana, io sono napoletana, è bellissimo perché... No, ma io parlavo nel senso di l'anima. No, ma lei ha ragione, io sono nata in una città appena 2 ore da Napoli, però evidentemente c'è una diversità che io come persona nata a Roma non coglievo. Evidentemente non conosco, però infatti non è molto importante. Infatti, per esempio, che ed è molto divertente, che quando parliamo in napoletano, e qui siamo molto attenti per la regia di Franco Rosi, io sono portata, conoscendo naturalmente il mio dialetto, a parlarlo in maniera fluida, e invece devo, per esigenze di regia, di Rosi, che me lo richiede, giustamente faccio un grande sforzo e spero di riuscire, cadenzare, rallentare un po' il dialetto per renderlo un po' più comprensibile. A tutti. Anche se naturalmente ci accorgiamo, per esempio, che ancora non abbiamo replicato lo spettacolo, siamo ancora alla prima, ma che cose che ci sembrano molto comprensibili, insomma, non parlo delle parole dialettali, quelle più astruse, quelle che naturalmente, anche se le cadenze proprio non si capiscono, no? Perché adunaie vuol dire accorsi. Me ne accorsi, non ci vuoi arrivare mai a capirlo, no? Quindi è una parola dialettale, ma anche quando non è così, mi accorgo e ci accorgiamo che il pubblico ormai si è talmente abituato in generale a un linguaggio televisivo, come dire, no? A un tipo di comprensibilità abbastanza media, che non si è abituato più a fare tanto sforzo, che a volte non capisce neanche quello che è abbastanza comprensibile, no? Quasi parlassimo tedesco. Non è così, anche perché la lingua poi ha una musica, ha un ritmo. Beh, il napoletano è particolare. La battuta più bella di Filumena Marturano, ce la vuole? Non c'è la battuta più bella. di Filomena Marturano non c'è, perché sono tutte belle. Quella che le piace di più, neanche quella più famosa, Figlie su figlie, non è la più bella. Forse per me può essere T'aggio voluto bene, con tutte e forza la vita mia, lei lo dice a Domenico, e ancora te voglio bene, e forza, meglio prima. Bellissimo, io la ringrazio. Lina Sastri, Luca De Filippo, regia di Francesco Rosi, Filomena Marturano al Teatro Argentina dal 9 al 16 novembre. La quota rosa. I have a dream. Siamo qui per il matrimonio. Ci stavi aspettando? Oh mio Dio, sì, sì. Lo hai trovato? Beh, non esattamente. Ho trovato il DNA di mia madre e ho 3 possibili padri. E devo dire a 2 che sono di troppo, ma a quali 2? Ho spedito io gli inviti, mia mamma non sa niente. Sei una smorfiosa, sei uguale a tua madre. Sembra che vi stiate già divertendo, eh? Oh, sì. Anch'io da ragazza. Lo sappiamo. Mamma mia, no, I really know. Mamma, I should not let you go. Una magnifica Mary Streep per una madre un po' degenere o comunque sui generis, perché ha una figlia che non sa qual è suo padre. Insomma, abbiamo sentito nella prima parte Lina Sastri al Teatro Argentina con Filomena Marturano, una madre che cresce 3 figli da sola e si fa sposare da Domenico Soriano, ma non rivela a Domenico Soriano qual è suo figlio, e qui invece abbiamo una figlia e 3 padri. Insomma, in Mamma Mia, questa commedia, prima musical, adesso sugli schermi cinematografici, appunto, con protagonista Mary Streep, si parla anche qui di maternità e paternità. Ma tutte e due, sia Filomena Marturano sia Mamma Mia, finiscono in un matrimonio. Allora, oggi parliamo quindi di madri single, matrimoni, come organizzare matrimoni e che cosa fare. Ma il primo passo è come convincerlo a dire sì, come convincere lui, perché generalmente la donna si vuole sposare. Allora, Betta Andrioli, autrice del libro Mi vuoi sposare? Come convincerlo in 6 mesi e a fargli credere che la decisione è sua. Ci viene in mente un altro film, Il mio grosso grasso matrimonio greco, in cui si cerca di far capire che gli uomini devono arrivarci da solo. Ma come convincerli? Allora, innanzitutto la prima cosa fondamentale è non far capire che quello è il nostro obiettivo, altrimenti quello scappa. Per cui assolutamente non rivelarsi. E poi sicuramente la cosa più importante, se così vogliamo dire, è farlo sentire importante, farlo sentire unico. Ogni uomo che dalla propria donna riesce a sentirsi unico, sicuramente prima o poi la proposta la fa. Quindi noi dobbiamo pensare di farlo sentire intelligente, importante, anche se sappiamo che magari arriva alle cose un pochino dopo di noi, oppure non è così brillante. Bello, tutto più, perché gli uomini vogliono sentirsi così e soprattutto ci credono, questo poi è il bello. Quindi sono proprio stupidi, insomma, lei ci sta dicendo. Diciamo, allora, gli uomini rimangono sempre un po' bambini, anche quelli che sembrano più emancipati, più maturi, e forse ogni uomo, donna che poi sposa, un pizzico di mamma, prima si parlava di maternità, la cerca, anzi, forse più che un pizzico, lì poi dipende da quanto un uomo è abituato ad arrangiarsi da sé. Ma non è un'idea un po' anacronistica del matrimonio? Purtroppo il matrimonio è anacronistico, nel senso che cambiano i tempi, ci si sposa e poi ci si separa, eccetera, eccetera, eppure rimane il sogno delle donne, eppure tutte le coppie prima o poi, o quasi tutte, ci arrivano. Per cui sicuramente può sembrare anacronistico, però è una cosa che resiste, è un'istituzione che resiste inesorabile nel tempo. Le tappe in 6 mesi quali sono? Dalla prima cena all'altare? Ecco, allora, dalla prima cena già ha toccato un tasto fondamentale, quindi far finta, almeno se così, se non siamo delle ottime cuoche, far finta di esserlo. O di aver dimenticato, no, io pensavo lui portasse a cena noi, quindi di aver dimenticato il portafoglio a casa, no? Ecco, guardi, no, gli uomini vogliono essere accolti, quindi più che portare a cena noi, sicuramente lo faranno le prime uscite, però adorano essere invitati a cena e magari a casa una cenetta a lume di candela. Poi purtroppo si parlava di portafoglio, visti i tempi che corro, un ragazzo deve mettere mano al portafogli, perché dopo qualche uscita purtroppo la vita è cara per tutti e un uomo non può permettersi, a meno che non sia un uomo ricchissimo, di pagare sempre lui. Ma noi scherziamo, abbiamo sempre pagato le nostre cene, tutte quante sì, noi. Sì, ma sì. E quindi questo sicuramente, per cui mostrarsi come una donna indipendente, nessun uomo sposerebbe una donna oggi che non lo è, anche dal punto di vista economico, e poi cercare di essere sempre sexy, sempre comunque senza esagerare, perché le bombe del sesso piacciono molto ma difficilmente vengono portate all'altare. Che cosa però bisogna fare, perché a un certo punto si mette in moto una macchina che è quella del matrimonio, che è abbastanza impegnativa, cioè noi abbiamo sentito Betta Andrioli che dice come farsi sposare e come portare all'altare in 6 mesi, ma 6 mesi, io chiedo qui in studio a Francesca Azzurlo, autrice di Domani mi sposo, Sperling e Kufer, 6 mesi sono sufficienti a organizzare un matrimonio? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Di solito il tempo medio per l'organizzazione di un matrimonio è 1 anno, però c'è chi ce la fa anche in 6 mesi, volendo ci se la fa anche in 15 giorni, basta andare negli Stati Uniti e sposarsi a Las Vegas e poi ritornare con la fede al dito, insomma, quindi 6 mesi possono bastare, bisogna essere molto organizzati. Lei perché ha scritto questo libro? Ma perché, innanzitutto perché in Italia non c'era un libro del genere, perché il matrimonio comunque culturalmente, socialmente, ancora uno status molto ambito dalle donne nonostante tutto, e poi perché ci sono una serie di piccoli dettagli che mediamente sfuggono ad una ragazza che sta organizzando il suo matrimonio, perché a parte le cose generali ci sono tanti piccoli particolari che poi possono determinare la riuscita dell'evento. Quindi questo manuale vuole essere un po' questo, quindi a parte i grandi aspetti, ovviamente porre l'attenzione su le cose che possono sfuggire, e ce ne sono tantissime. Ecco, no, tutto quello che assolutamente non si fa. Ecco, qual è quello che non si deve fare? Ma perché intanto diamo qualche consiglio a queste ragazze. Lei parla poi di matrimoni in bianco, cioè i primi, il matrimonio classico, quello lì. Ma sì, chi si sposa ovviamente lo fa. Non un secondo matrimonio, un matrimonio in tarda età. No. Può essere anche un secondo matrimonio, tanto adesso anche i terzi e quarti matrimoni sono sempre con l'abito bianco, in pompa magna, sulla scia dei matrimoni americani. Ah, ecco, io ero rimasta no, che si andava in comune 10 minuti, no? Assolutamente no, assolutamente. Chi va in comune ha sempre un profilo molto sobrio, eccetera, e magari va in comune in tarda età, ma è il primo matrimonio, ed è un'altra scelta. Chi si sposa seconda, terza volta e ci crede tanto, assolutamente fa un matrimonio come il primo. Quindi, anche a 50 anni con l'abito bianco? Assolutamente sì. Non è un po' ridicolo? Sì, ovviamente. È un po' ridicolo e lo sottolineo, però c'è anche questa possibilità. Comunque, ecco, fa capire come alla fine il matrimonio sia ancora adesso un traguardo da raggiungere. Allora, io leggo dal suo libro: sì. L'abito con strascico e velo lungo è riservato alle cerimonie religiose e quindi vietato in municipio. Ovviamente, sì. Poi richiede il tight per lo sposo e almeno una coppia di paggetti o damigelle, certo. Nipoti, nipotini, eccetera. Un matrimonio molto formale, oppure ovviamente. Figli di primo matrimonio, eccetera, perché sì, di solito sono sempre i figli della coppia stessa, che perché ci si sposa anche dopo. Sì, anche dopo. Poi in generale, sia per il rito civile sia per quello in chiesa, sono vietati i modelli troppo corti e stretti, le scollature profonde, i tessuti trasparenti, strass e paillette. La cerimonia è un passaggio sociale molto importante nella tradizione popolare e come tale va rispettata. Quindi lei parla un pochino di sobrietà. E poi lei dice anche una cosa molto carina: la giarrettiera porta fortuna, va indossata con discrezione, solo con gli abiti ampi che non la lasciano neppure intravedere. Ah, ecco, non è che si deve vedere un po' come nei film western. No, non è assolutamente elegante. Ragazzi da saloon. Soprattutto perché la giarrettiera, per essere indossata, richiede comunque una taglia 40, massimo 42. Quindi, quindi insomma, siamo fuori target. Almeno tutti noi saremo fuori target. L'80% delle nostre ascoltatrici. Quindi allora, se proprio si deve indossare, che si indossi sotto un abito ampio che nasconda. E riservarle al marito per la prima notte di nozze. Assolutamente. Ah, ecco. Sì. Poi c'è un'altra cosa molto carina che dice: vale la pena ricordare alle invitate che il bianco è proibito perché è il colore della sposa, e va bene, concesso con riserva il nero, ma solo di sera, ma poi assolutamente io aggiungerei non la sposa, anche se ricordiamo Claudia Gerini, molto divertente, in un film con Verdone, dove lei ovviamente per fare da controparte si vestiva in nero. Quindi insomma è un piccolo manuale che chiarisce alcuni punti. Su tutti gli aspetti del matrimonio. Su tutti, anche quelli economici. Allora, qualcuno si è sposato recentemente, si è sposato in comune, Tania Lugli, sindaco Possidonio in provincia di Modena, PD, si è da poco sposata con il sindaco di Carpi, Enrico Campedelli, sempre PD, quindi vabbè, due comuni diversi, però sempre stesso partito, e la cerimonia è stata celebrata ad onorevole Pierluigi Castagnetti, insomma un evento in Emilia Romagna. Sì, buongiorno a tutti, è stato un po' un matrimonio particolare, molto bello, ci siamo conosciuti tra l'altro proprio grazie alla politica, quindi la politica ci offre anche aspetti positivi che noi abbiamo assolutamente colto. E il matrimonio è stato appunto celebrato con rito civile dall'onorevole Castagnetti, abbiamo scelto di celebrarlo nel Teatro di Carpi per poter consentire ai cittadini di poter partecipare a questo evento che per noi è stato un evento importante. Privato, ma è stato anche un momento di celebrazione di queste nostre due città, una molto di Carpi, l'altra San Possidonio più piccolina. Ma ecco, ma quanti chilometri stanno l'una dall'altra? No, siamo circa sui 20 chilometri, Carpi è un comune di 60.000 abitanti, 66.000, un comune piccolino, sfiori 4.000 abitanti, ma una realtà comunque importante, quella della Bassa Modenese, ricca da un punto di vista economico, da un punto di vista dei servizi e di tutto quello che offre ai propri cittadini. Ma dove abitate, a Carpi o a San Possidonio, giusto? Sì, San Possidonio, prende nome da un vescovo del 400 avanti Cristo. No, abbiamo comprato un appartamento con mutuo in mezzo nella città di Carpi e adesso risiediamo lì tutti e due. Io in realtà ho ancora la residenza a San Possidonio perché ci siamo sposati il 7 di settembre. Quindi insomma, perché lei deve cambiare residenza, giusto? Perché il matrimonio impone l'obbligo di residenza tra i coniugi. La quota rosa. Allora, stavamo sentendo Tania Lugli, sindaco di San Possidonio in provincia di Modena, sposatasi con il sindaco di Carpi. A questo punto lei deve trasferire la residenza a Carpi, sentivamo. Esatto. E allora che fa? Si dimette da sindaco o può mantenere la carica di sindaco pur essendo residente a Carpi? Certo, certo, assolutamente sì. Ci sono altri esempi in provincia di Modena e non solo. Penso al sindaco di Bologna, che non è di Bologna, ad esempio Sergio Cofferati. Quindi è assolutamente possibile mantenere la carica di sindaco. Peraltro nei nostri due paesi si voterà nelle prossime tornate elettorali per le amministrative, quindi tra aprile e giugno 2009, a seconda di quando deciderà poi il governo la convocazione dei comizi. Io ho messo a disposizione la mia ricandidatura perché sono al primo mandato e quindi vediamo un po' cosa succede. E lei ha nominato Sergio Cofferati, che ha deciso, questa settimana ha rivelato, che lui non vuole più candidarsi per dei motivi personali, cioè per stare dietro al figlio. Sergio Cofferati ha un figlio da una seconda compagna, quindi anche un'età abbastanza avanzata. Condivide questa scelta di Cofferati? Ma sa, il matrimonio è comunque una scelta di vita, una scelta importante. Io non credo, come diceva la dottoressa Andrioli, che sia anacronistico, anzi... Lo dicevo io. Ah, lo diceva lei. Ecco, no, ma un tipo di matrimonio, intendo dire sposarsi in pompa magna, io dicevo, non è un po' anacronistico? Ma ecco, dipende da come ci si arriva, nel senso che effettivamente è un momento molto emozionante, molto importante, che segna la vita di noi, e anche perché poi presuppone tutta un'altra serie di scelte come quelle della famiglia, dei figli, e quindi automaticamente si cambia mentalità. Credo che di fronte a una società complessa come quella di oggi, molto complicata, vediamo anche gli aspetti economici che condizionano la vita di tutti, dare una risposta come quella del matrimonio alla propria vita, quindi ai propri sentimenti, alla propria capacità, insomma, di crescita come individuo, sia una scelta importante. Questo mette in discussione una serie di altri aspetti come quelli della carriera. soprattutto per noi donne, perché bisogna ricordarsi che poi la famiglia molto spesso ricade su di noi. Non sempre i servizi che riusciamo, qui parlo da amministratore invece, che riusciamo a offrire ai nostri cittadini sono servizi a tutto, a 360 gradi, a tutto campo. Parlo, penso ai servizi scolastici, a quello che significherà la introduzione, anzi la reintroduzione del maestro unico, quindi al ritorno a quel tipo di scuola che non offre la possibilità di collocare i figli nel pomeriggio, e a quello che significherà rispetto all'impatto che avrà anche sui servizi sociali. Per dovere di cronaca, ecco, per dovere di cronaca le dico, perché l'ho intervistata appunto quando è stata approvata la legge, il ministro Gelmini ha detto che non è vero che si abolirà il tempo pieno. Io lo dico per dovere di cronaca. Prego. Io me lo auguro, perché so già che i cittadini lo chiederanno a me, quindi sarà il comune ancora una volta a dover intervenire per fornire questo tipo di servizio ovviamente agli abitanti del proprio comune. Ce lo auguriamo tutti. Allora, Laura Arosio, sociologia del matrimonio, ricercatrice all'Università di Milano Bicocca. Che cosa vuol dire sociologia del matrimonio? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sociologia significa, insomma, i sociologi hanno l'ambizione di studiare la realtà sociale, e penso che la conversazione che abbiamo fatto fino a questo punto in realtà conforti questa ambizione, perché la sociologia del matrimonio mira appunto a studiare questa istituzione che in realtà è in bilico fra presente e futuro. Ci sono elementi di forte continuità con il passato, lo si diceva prima, presto o tardi la maggioranza degli italiani finisce per sposarsi, fare figli, e ripone proprio nella famiglia, nel matrimonio, forti aspettative. D'altro canto però qualcosa sta cambiando sicuramente, ci sono fenomeni come il posponimento del matrimonio, si arriva sempre più tardi al matrimonio, alcuni non ci arrivano, aumentano il numero delle convivenze, si diffondono fenomeni come l'instabilità coniugale, quindi un numero crescente di persone deve far fronte alle conseguenze che derivano da questo cambiamento, fra cui anche la diffusione delle seconde nozze, delle famiglie allargate. Quindi ecco che il matrimonio è appunto un'istituzione sociale fortemente radicata nella società, che appunto, pur avendo forti legami con il passato, sta certamente cambiando. Ecco, sociologia del matrimonio significa studiare un po' tutti questi aspetti e magari provare anche a guardare al futuro di questa istituzione. L'aspetto più curioso che le è capitato di studiare? Ce ne sono tanti. Ce li citi. A partire dall'inizio della storia di coppia fino alla fine, per iniziare si diceva come convincere il proprio partner a farsi sposare. Lo studio della sociologia del matrimonio inizia ancora prima, come ci si sceglie. La cosa curiosa è che appunto anche nelle società contemporanee occidentali le regole di formazione della coppia non sono lasciate all'individuo, ma ci sono regole sociali che ci dicono con chi sposarci. È noto il fenomeno dell'omogamia, ci si sposa fra uomini e donne che hanno la stessa occupazione, che hanno lo stesso titolo di studio, si diceva prima fra due sindaci addirittura. Ecco che, ma non c'è il sensale, no? Ci manca secondo me la figura del sensale. C'era un bellissimo film tanto tempo fa che si chiamava Dall'altra parte della strada, con Amy Irving, che lei era una ragazza ebrea molto divertente, molto all'avanguardia, che si era innamorata di uno scrittore un po' fasullo, e invece la nonna le organizza un matrimonio con la sensale di Brooklyn, e alla fine lei si mette con questo venditore di sottaceti, che però era veramente veramente molto molto carino come persona. Ecco, manca forse un po' la sensale, l'amica che dice aspetta un attimo, usciamo, ti presento un mio amico. Beh, la, La sensale in un certo senso c'è, ed è la società, il gruppo sociale che ci circonda. Noi riceviamo, anche se non ce ne accorgiamo, delle pressioni, appunto, dalla società in cui stiamo, che alla fine ci portano a sposare un qualcuno che sì, che abbiamo scelto noi, ma che guarda caso ha delle caratteristiche che sono quelle che la società ci impone. Insomma, un avvocato è più, lei ci sta dicendo che un avvocato è più facile che si sposi con un altro avvocato. Beh, certamente. Ah, ok, vedo. Vabbè, allora una scrittrice, lo diciamo a Francesca Azzurro qui in studio, si sposerà probabilmente con uno scrittore, e una psicologa familiare come Francesca Sacca si sposerà forse con uno psicologo. Però noi abbiamo sentito, importantissimo in queste due commedie che abbiamo scelto oggi, Filumana Marturano e Mamma Mia, la necessità anche di parlare di queste madri che da sole portano avanti una gravidanza e da sole poi crescono i propri figli, le madri single. Lei è psicologa familiare, animatrice del blog Psicologo in Famiglia, appunto, myblog.it. Quante sono le madri single e quali sono le difficoltà di queste donne? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. Il mio blog è proprio psicologoinfamiglia.myblog.it, che collabora con un altro sito che è mammasingle.org. Da questo connubio è nato proprio l'interesse nei confronti di queste mamme single, che sono moltissime. Purtroppo l'attenzione dei media non è molto concentrata su questo argomento, però la mia attenzione è stata catturata da questa situazione proprio perché è molto delicata. E facendo da moderatrice in questo forum dedicato alle mamme single, mi sono accorta che c'è un bisogno, direi quasi esasperato, di condividere le proprie storie e di fare gruppo, perché queste mamme tra loro parlano molto. Allo stesso tempo però c'è una tendenza comunque a isolarsi in generale dalla società comunque e rimanere nei loro spazi. Quindi l'obiettivo sarebbe appunto quello di tirare fuori queste mamme, di permettere a queste mamme di condividere le loro esperienze e tirare fuori i loro vissuti, che sono comunque vissuti alquanto dolorosi. Ecco, molto spesso queste madri single sono diventate single, oppure non hanno rivelato la propria gravidanza all'uomo con cui stavano, oppure l'uomo con cui stavano ha detto pensaci tu, anche se oggi sappiamo che non è più come ai tempi di Filumena Marturano, si può fare un test del DNA e stabilire chi è il padre. Ecco. Assolutamente sì, comunque è una categoria molto ampia. Per madri single intendiamo sì le mamme appunto che sono state abbandonate dal partner, ma anche mamme appunto separate, che hanno comunque avuto alle spalle una precedente esperienza comunque coniugale, anche le stesse mamme che purtroppo hanno perso il partner a seguito di un lutto, quindi è una categoria molto vasta, diciamo. La maggior parte sono separate, divorziate, e comunque ci sono anche moltissime mamme in gravidanza, le cosiddette ragazze madri, il cui partner purtroppo è andato via. Ecco, a chi si possono rivolgere queste ragazze giovani? Queste ragazze giovani dovrebbero rivolgersi appunto a figure esperte nel campo della psicologia, psicologi, psicoterapeuti, che potrebbero aiutarle notevolmente nel tirare fuori appunto quelli che sono i loro vissuti di dolore e di ansia, di sofferenza, e soprattutto aiutarle a individuare le modalità più funzionali per gestire la loro vita, anche proprio in maniera pratica, quindi la relazione con il figlio, e soprattutto lavorare molto su se stesse come donna, perché molto spesso queste donne si annullano completamente. Stiamo parlando di un'età? Di un'età a partire, diciamo, dai 18 anni in su comunque. Dai 18 anni in giù prevalentemente i consultori comunque sono anche molto validi, sono strutture valide a cui si possono appoggiare. La quota rosa. Io me ne vado, Domenico. Dì all'avvocato che procedesse legalmente. Io non nego niente e ti lascio libero. Lo credo. Hai voluto guastare la pace di quei tre poveri giovani. Io non capisco con quale criterio. Per quale ragione? Perché uno di quelli tre è figlia a te. Filomena, e ci te credo. Uno di quelli tre è figlio a te. Statta zitta. Poteva dire che tutti e tre erano figli. Ci avresti creduto, te lo facevo credere, ma non è vero. Vattene, va, Filomena, non ne ho vero. Ma... No, è vero, non ne ho vero. Tu non ti ricordi, tu non ti puoi ricordare. Tu partivi. E chi è? No, questo non ti dico. Hanno a essere uguali tutte e tre. Va, Filomena, va, non ne ho vero. Solo per me. Solo per me è vivo. tuo figlio. E chi è? Anna essere uguali tutti. Tre. Splendida Regina Bianchi nelle vesti di Filumena Marturano e Edoardo De Filippo in quelle di Domenico Soriano. Lo ricordiamo perché abbiamo aperto la puntata con Lina Sastri. Lina Sastri e Luca De Filippo, con la regia di Francesco Rosi, sono al Teatro Argentina con questa pièce di Edoardo De Filippo. Insomma, una maternità, quella di Filumena, ma anche quella di Mamma Mia, perché sono due maternità un po' diverse, un po' contrapposte, molto dure, di donne che portano avanti una maternità, anzi Filumena, tre figli da sola. Allora, Francesca Sacca, psicologa familiare, animatrice del blog psicologoinfamiglia.myblog.it, quando viene una ragazza, quando viene anche una donna che è in difficoltà, che è una madre single, qual è il consiglio che lei le dà? Innanzitutto uscire dall'isolamento che la caratterizza, perché spesso hanno molta paura e vergogna di manifestare quelli che sono i loro vissuti di dolore. Quindi chiedere aiuto assolutamente è la prima cosa per elaborare questi vissuti, comunque, che sono di perdita, di sconfitta e di fallimento. E solo elaborando questi sentimenti nel profondo potranno tornare ad essere comunque delle donne che vivono appieno il fatto di essere donne, essere anche mamme, e quindi comunque gestire una sana relazione col proprio bambino. Però è un lavoro che si fa chiaramente con l'appoggio di una figura esperta. Quindi con l'appoggio di uno psicologo che le potrà seguire e le potrà appunto aiutare ad uscire da questa situazione. E magari trovare un altro compagno. Decisamente, migliore, perché... di quello che hanno lasciato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, domani mi sposo, come organizzare un matrimonio perfetto? C'è sempre questa, diciamo, cerimonia molto particolare, molto formale, o in chiesa o in comune, ci sposa il sindaco, ci sposa il prete. Insomma, non c'è un modo di fare un matrimonio un po' più familiare, un po' più tra amici? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché in Italia, in base ad una vecchia legge, è possibile essere sposati da un amico, quindi il sindaco può temporaneamente delegare le sue funzioni celebrative a chiunque non abbia perso i diritti civili, abbia la fedina penale pulita, quindi sia, diciamo, teoricamente eleggibile come consigliere. Quindi basta fare una semplice richiesta in carta semplice, produrre certificato del casellario giudiziario e fare un colloquio con il sindaco. Quindi io stessa l'ho fatto, ho sposato una coppia di amici a Milano, sono andata, insomma, al sindaco insieme a questi miei amici, mi sono presentata al sindaco, ho espresso la mia volontà, il sindaco è stato ben felice di delegarmi i poteri, quindi in pompa magna. Anche perché il sindaco di Milano di matrimoni ce l'ha. Ah, certo, ma questo era Pioltello in verità, era un piccolo paesino, però è stato molto carino perché comunque rende l'atmosfera più familiare. E poi in effetti comunque è una grande emozione, perché io e lei aveva la fascia tricolore. Sì, sì, sì, avevo la fascia tricolore, lo stendardo, una segretaria che mi aiutava, ho letto e ho firmato l'atto. Quindi questi miei amici, comunque il loro sembra atto di matrimonio... Sembra un po' Nanni Moretti, un film di Nanni. Sì, però si può fare. Però insomma si può fare, si quindi può diventa fare. Un matrimonio più easy going, diciamo. Sì. Tania Lugli, sindaco di San Posidonio in provincia di Modena, sposata al sindaco di Carpi Enrico Campedelli, e la cerimonia è stata celebrata ad onorevole Pierluigi Castagnetti. In realtà abbiamo attivato la procedura appena detta, nel senso che l'onorevole Castagnetti è stato delegato dal sindaco di Carpi, il mio attuale marito, e ha potuto celebrare il matrimonio, proprio perché la normativa dice questo. La funzione di celebrante spetta al sindaco, che può delegarla se qualcuno ne fa richiesta. Quindi anche a noi è successa questa cosa. Quindi lei conferma che si può fare un matrimonio. La scelta di Castagnetti a che cosa è dovuta? Ma è dovuta al fatto che comunque l'onorevole Castagnetti per il distretto carpigiano è sempre stato un importante esponente politico, poi comunque è stato segretario, insomma, di partiti importanti nel passato, e quindi avevamo piacere che fosse lui a celebrarlo, e quindi per dare anche maggiore ufficialità all'atto. Personalmente non mi è mai capitato di delegare nessuno, perché solitamente i matrimoni che celebro li celebro tutti io poi sono sindaco di un comune piccolo, quindi in realtà non sono tantissimi, come magari può capitare a mio marito o al sindaco di Milano che abbiamo appena citato. Ed è un momento assolutamente importante per la vita di coppia, quindi ci tengo proprio tanto a celebrarli io, e di solito gli sposi hanno piacere che sia il sindaco ad assumere assumersi insomma questo compito e a celebrare il matrimonio. Lei si emoziona quindi? Io mi emoziono tutte le volte, da quando ho deciso di sposarmi ancora di più, proprio perché rivivevo nel momento insomma del matrimonio dei miei cittadini quello che sarebbe stato il mio matrimonio, e quindi è stato particolarmente emozionante anche il giorno del mio matrimonio trovarmi dall'altra parte del tavolo, e quindi viverlo in modo assolutamente diverso, perché davvero è un momento importante di scelte di vita, e quindi l'ho vissuto davvero con estrema emozione. Insomma, lei si è ritrovata dall'altra parte con il sindaco, che però a quel punto faceva lo sposo, e con l'onorevole Castagnetti che faceva il sindaco. Insomma, è stato un matrimonio veramente da commedia, no? Bello perché appunto particolare. Allora, Laura Arosio, ricercatrice all'Università Milano Bicocca, autrice di Sociologia del matrimonio, ha nuovi casi da scrivere nel suo libro. Ne ho sentite davvero molte. Possiamo certamente dire però che proprio rispetto alla celebrazione del matrimonio, che rimane una tappa importante in tutte queste storie che abbiamo sentito, però c'è una differenza rispetto al passato. Gli studiosi dicono che in passato il matrimonio fondava la coppia, cioè con il matrimonio, con la celebrazione del matrimonio, iniziava la vita di coppia. Oggi semmai la perfeziona, cioè il matrimonio non dà inizio alla vita di coppia, ma arriva in un momento in genere di maturità della relazione, spesso dopo altre esperienze, lunghi fidanzamenti o magari anche una convivenza durata magari molti anni. Quindi è un momento che ha un particolare significato proprio perché forse più consapevole, più vissuto, ecco, non più un inizio ma un momento importante che perfeziona la storia di coppia e che certe volte è destinato anche magari a essere protratto nel tempo e non arrivare mai. Comunque ecco, il matrimonio come una tappa di un percorso che oggi è più complesso, più variegato. In passato il percorso di formazione della vita a due era più lineare. Più lineare. Io la devo interrompere perché siamo proprio in chiusura, volevo far fare una battuta a Francesca Sacca, psicologa familiare, e anche a Francesca Zurlo. Allora, Francesca Sacca, lei ho visto che a un certo punto sentiva Laura Arosio e aveva un appunto. Sì, in merito al matrimonio, nel senso che dal punto di vista psicologico è comunque una tappa di inizio, perché comunque molte persone scatenano proprio veri e propri disturbi di ansia al momento di proprio i fiori approcciarsi. Di Bach possono essere utili, no? Beh, ci vorrebbe qualcos'altro, secondo me. Un assolutamente. Po' di whisky. Sì, allora, sì. Qui vediamo proprio il contrasto tra psicologia e sociologia. È uno stacco, perché è una fase di passaggio, e quindi comunque come tutte le fasi di passaggio vengono vissute con molta ansia. Francesca Zurlo, autrice di Domani mi sposo, come organizzare un matrimonio perfetto, la truffa da evitare. Ma sicuramente con il ricevimento, perché sui cibi e sui vini nessuno di noi è mai esperto e rischia spesso di prendere delle sole. Come si dice un po' a Roma, non so, a Milano come si dice? Ma non lo so, io sono abruzzese. Delle grosse fregature. Quindi occhio al catering e assaggiate sempre il menù che avete scelto. Allora, abbiamo sentito quello che possiamo suggerirvi per un matrimonio perfetto o imperfetto, insomma l'importante è che sia felice. Poi ringrazio Francesca Zurlo, autrice di Domani mi sposo, Sperling e Kufer, Francesca Sacca, psicologa familiare, animatrice del blog Psicologo in Famiglia, myblog.it, Laura Arosio, ricercatrice all'Università Milano Bicocca, autrice di Sociologia del matrimonio, Betta Andrioli, autrice del libro Mi vuoi sposare? Come convincerlo in 6 mesi, e poi Tania Lugli, sindaco di San Posidonio, che appunto si è sposata il sindaco di Carpi. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a laquatarosa@radio24.it. Ringrazio anche Lina Sastri che ha aperto questa puntata. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito. Però poi magari ci darà anche qualche consiglio. Noi ci interrompiamo un attimo per ritrovarci subito dopo la pausa. Esatto. Io la interrompo perché poi ci dirà che cosa farà, allora, se rinuncerà poi alla carica di primo cittadino, ma subito dopo la pausa. Noi ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo a tra poco.